GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Influenza stagionale verso il picco, accessi al pronto soccorso aumentati del 20% nelle ultime due settimane. Il commercio tradizionale resiste, ma nel boom degli acquisti online il Friuli Venezia Giulia si segnala al quarto posto in Italia. Un solo infortunio in un anno nei cantieri e per la terza corsia sulla A4 la gestione di autostrade Alto Adriatico diventa un modello. Reati in calo nel 2025 in provincia di Pordenone, il bilancio di un anno del comando dei carabinieri. Serata di luci, colori e musica a Villa Manin per la mostra Confini, la mappa delle rassegne di Natale in regione. Calcio, basket e pallavolo nel menù sportivo dell'ultimo sabato dell'anno. L'Udinese ospita la Lazio e cerca un successo, scaccia crisi. Le 12.31 in questo istante, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Era atteso nel periodo natalizio il picco dell'epidemia influenzale stagionale. Il riscontro dalle strutture ospedaliere conferma per ora un aumento degli accessi per affezioni respiratorie, in particolare tra i pazienti pediatrici. Il servizio. Se non abbiamo raggiunto il picco, poco ci manca. Febbre alta fino a 40, tosse e raffreddore hanno messo a letto in questi giorni un sacco di persone. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati più o meno ovunque in regione del 20% nelle ultime due settimane. Il virus influenzale in circolazione, fanno sapere dall'azienda sanitaria Friuli Centrale, è quello con i sottotipi H1 e H3. I ricoveri riguardano soprattutto i pazienti anziani, sui quali la vaccinazione, fa sapere il direttore sanitario David Turello, funziona bene. La copertura ha superato il 50% degli over 65, in linea con i dati degli ultimi anni. In aumento invece l'immunizzazione dei bambini, che in Friuli ha superato il 28%, tanto che al momento i piccoli ricoverati per complicanze sono tutti non vaccinati. Leggermente inferiore la percentuale di bimbi vaccinati nell'area giuliana, sono 1 su 5, il dottor Federico Poropat. Nel bambino si fa con lo spray intranasale, per cui di fatto anche riduce la preoccupazione degli aghi. Adesso è tardi per fare il vaccino? È tardi, ma non tardissimo. Volendo si potrebbe parlare con il pediatra curante per capire se ci sono gli estremi per poter fare appunto la vaccinazione. L'impressione è che quest'anno la febbre duri più giorni. E per questo anche motivo di preoccupazione per i genitori, che facilmente portano i bambini a farsi vedere. Senza preoccupazione la febbre può durare anche 7-8 giorni con una febbre alta, con un bambino che comunque tutto sommato non sta così male. In aumento negli ultimi anni anche il numero delle polmoniti. Sulle cause di questo aumento delle polmoniti non è tutto ancora chiaro da un punto di vista scientifico. Sicuramente l'influenza può essere una porta d'entrata e quindi favorire, e quindi questa è una buona occasione per, diciamo, in qualche maniera pubblicizzare la vaccinazione antinfluenzale. L'aumento del 20% degli accessi in pronto soccorso per virus respiratori corrisponde in questi giorni ad un incremento di circa il 10% dei ricoveri, fa sapere da Trieste il primario Franco Cominotto. La pressione sull'ospedale al momento è gestibile, ma preoccupano i prossimi giorni. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata depositata in Consiglio regionale la proposta di legge intitolata Misure di sostegno economico e ulteriori interventi a favore delle persone affette da fibromialgia. A firma delle consigliere Simona Liguori, di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia, e Rosaria Capozzi, del Movimento 5 Stelle, e sottoscritta anche da Massimo Moretuzzo, Marco Putto, Enrico Buglian e Giulia Massolino. La fibromialgia è una patologia cronica e complessa che incide in modo profondo sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono, compromettendo la sfera lavorativa, sociale e relazionale. La proposta prevede l'introduzione di un budget di cura regionale destinato a contribuire almeno in parte al sostegno dei pesanti costi sanitari e sociosanitari non coperti dai livelli essenziali di assistenza. Ora parliamo di commercio. Quello elettronico negli ultimi anni ha mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimità, ma il 90% delle vendite al dettaglio continua a svolgersi presso le attività commerciali fisiche. La nostra regione, tuttavia, spicca tra quelle più attive in rete. Quarto posto in Italia è la posizione del Friuli Venezia Giulia in una particolare classifica, quella del numero di persone sul totale dei residenti che ha fatto acquisti online nell'ultimo anno. Secondo le stime della CGA di Mestre, nel 2024 il 46,4% degli abitanti ha comprato per mezzo dell'e-commerce, un totale di 554.000 persone per un giro d'affari di circa 2 miliardi di euro. Sul podio la provincia autonoma di Trento, che ha fatto poco di più, 49,2%, segue la Valle d'Aosta, 47,2% e la Toscana con il 47%. L'indicazione che proviene da queste percentuali è che anche in regione il commercio online sta aumentando la sua quota di mercato. Al tempo stesso però i negozi tradizionali, pur con qualche difficoltà, resistono. Sempre la ricerca sottolinea come il 90% delle vendite al dettaglio avvenga ancora nelle attività commerciali fisiche. I negozi insomma non saranno cancellati e anzi mantengono ancora la quota dominante nelle vendite, mantenendo un ruolo centrale nelle abitudini dei consumatori. Viene comunque vista con favore dalla Confcommercio regionale la tassa di 2 euro inserita in finanziaria per i pacchi provenienti da fuori Europa, pensata per colpire soprattutto le merci prodotte in Cina. Come ha spiegato il presidente da Pozzo, poteva essere anche di più. Il tentativo è di riequilibrare una disparità che penalizza il commercio nazionale. Infine, se si guarda i settori preferiti per gli acquisti online, e i dati sono riferiti al mercato nazionale, al primo posto si trova l'abbigliamento. 2 su 10 sono compere fatte in rete, seguono gli articoli per la casa, poco più di 1 su 10, i film in streaming e i prodotti cosmetici. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sicurezza sul lavoro, il cantiere per la terza corsia dell'autostrada 4 diventa un modello nazionale di gestione nel settore delle costruzioni. Nel 2025 nei cantieri del commissario per l'emergenza gestiti dalla concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico si è verificato un solo infortunio di lieve entità sugli oltre 71.000 uomini al giorno impiegati nelle diverse attività. In sostanza gli incidenti sul lavoro lungo la terza corsia sono ormai prossimi allo zero, in netta controtendenza rispetto ai dati nazionali forniti dall'INAIL per il settore delle costruzioni, dove nei primi 10 mesi del 2025 si è registrato un aumento del 3% degli infortuni rispetto al 2023. Fondamentali, spiega la concessionaria, si sono rivelati gli allineamenti continui con le 77 imprese esecutrici dei lavori, la presenza costante sui cantieri dei tecnici di Autostrade Alto Adriatico per garantire l'applicazione rigorosa delle procedure, il controllo preventivo e la validazione di tutti i piani operativi di sicurezza. In particolare tutte queste attività hanno prodotto 125 verbali di riunioni di coordinamento, una media di 3 a settimana, quasi 500 verbali di sopralluogo e 350 piani operativi di sicurezza verificati e approvati. La cronaca nera, il bilancio di un anno di attività dei carabinieri di Pordenone è stato illustrato questa mattina. Abbiamo seguito la conferenza stampa. Nel 2025 reati in calo nella provincia di Pordenone rispetto all'anno precedente. Un dato rilevante dopo che negli ultimi 5 anni il trend della delittuosità aveva mostrato un costante aumento. Un anno impegnativo per l'arma dei carabinieri, come ha sottolineato il comandante provinciale, il colonnello Emanuele Spiller, siamo scesi sotto i 7.000 reati, con un calo significativo contro i danni al patrimonio. Stabili le rapine e reati legati agli stupefacenti, con il sequestro più ingente dell'anno effettuato a marzo a Zoppola con 1,2 kg di cocaina purissima. In diminuzione le estorsioni, le violenze sessuali, le ricettazioni e le truffe. In forte calo anche tutti i reati da codice rosso, dove gli atti persecutori sono passati da 49 a 20, le violazioni del divieto di avvicinamento da 18 a 3. Sui furti, specialmente quelli in abitazioni, sono diminuiti del 46% negli ultimi 3 mesi, periodo che statisticamente è quello più interessato dal reato. Una flessione grazie al piano straordinario di controllo del territorio effettuato dagli uomini dell'arma nella provincia di Pordenone. Per quanto riguarda le attività di repressione, nel 2025 sono state arrestate 76 persone e denunciate a piede libero 1.244, mentre sul fronte preventivo il numero delle pattuglie dei militari impegnati nei servizi di controllo del territorio nel 2025 è aumentato rispetto all'anno precedente. Emanuele Spiller, comandante provinciale dei Carabinieri di Pordenone. La volontà è stata proprio quella di cercare di prevenire reati, in quanto la nostra volontà è quella di garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare che vengano commessi reati. Naturalmente anche l'attività repressiva in collaborazione con l'autorità giudiziaria sotto la loro direzione ha portato degli arresti, in modo particolare legati ai reati dei furti in abitazione e anche con l'AGI minorile in merito ad alcune rapine e furti avvenuti nel centro storico di Pordenone. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Friuli Venezia Giulia, coordinato dal sostituto procuratore di Trieste Chiara De Grassi, al termine di investigazioni digitali ha individuato e sequestrato 30 siti internet utilizzati per indurre i cittadini a fare investimenti in criptovalute, in realtà falsi. Le indagini sono state avviate dopo che una persona è stata agganciata, per così dire, tramite noti applicativi di messaggistica istantanea con utenze e account fittiziamente intestati. Stati. L'uomo, convinto dell'effettiva conclusione di un contratto di lavoro a distanza, ha invece subito una perdita di circa 7.000 euro apponendo, come gli era stato richiesto di fare, like su alcuni video social in cambio di piccole somme di denaro. Successivamente gli è stato proposto di compiere attività di trading in criptovalute assicurando guadagni rapidi che ovviamente non si sono mai verificati. Le indagini informatiche hanno poi individuato gli altri 29 portali costituiti dalla stessa organizzazione, tutti simili, aventi dominio.it, realizzati per truffare utenti italiani. 12.41, passiamo al meteo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, variabile sul Tarvisiano. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12 gradi, a Udine 9 gradi e mezzo, Pordenone e Gorizia 7 gradi e mezzo. In area montana Forni di Sopra 4 gradi, 5 decimi, Tolmezzo 4 gradi, Piancavallo 3, a Tarvisio meno 2 gradi, a Sappada sono 4 gradi sotto lo zero, in quota su Monte Zoncolan 7 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 1 grado e mezzo, sulla costa Lignano 6 gradi e 5 decimi, a Grado 6 gradi. Previsioni a cura dell'ARPA: oggi pomeriggio avremo cielo sereno con possibile presenza di lievi velature ad alta quota. Sul Tarvisiano e in Valcellina sarà probabile la presenza di foschia e nubi basse a fondo valle. In giornata rapida ascesa delle quote dello zero termico fino a 3.000 metri circa, con temperature massime miti per il periodo, specie in quota e con inversione termica nei bassi strati. Domani cielo sereno, sulla costa soffierà bora moderata con raffiche più sostenute a Trieste. Zero termico ancora piuttosto elevato a 2.600 metri circa, con temperature miti per il periodo, soprattutto in quota e con inversione termica appunto nei bassi strati. A Pordenone ieri sera nel Duomo di San Marco sono stati consegnati i premi Stella di Natale, riconoscimento che da 58 anni è attribuito a esempi di altruismo e volontariato. L'onorificenza, che è iniziativa dell'associazione Pro Pordenone, è stata assegnata a Maria Antonietta Bianchi Pitter, avvocata civilista impegnata nella promozione dei diritti, e a Giovanna Durat, volontaria da oltre un decennio nelle Valle Dolomiti friulane. Il terzo premio è stato consegnato al gruppo missionario della parrocchia del Sacro Cuore di Pordenone, attivo nel mondo da un trentennio, con menzione speciale a Carlo Bellato, scomparso lasciando un segno profondo nella comunità per il suo impegno in diverse attività di volontariato. Quarto premio aggiudicato a Mihai Tudose, nato in Romania, residente ad Azzano Decimo, donatore di sangue Avis, volontario della Croce Rossa ed esempio di integrazione. Le 12.43, la pagina della cultura con una panoramica delle mostre di questo periodo in regione. Ieri intanto la suggestiva serata a Villa Manin tra proiezioni e musica. Una serata di luci e colori con musiche e spettacoli di videomapping e la notte dei confini, la festa di Natale organizzata ieri a Villa Manin per celebrare la mostra in corso che si intitola appunto Confini, da Gauguin a Hopper, curata da Marco Goldin. I capolavori dei maestri dell'Ottocento e del Novecento esposti sono stati proiettati sulla facciata della villa, sulle note del concerto di Remo Anzovino, ad accompagnare arte con arte. Per il visitatore interessato alla mostra c'è tempo fino ad aprile, ma in ragione la scelta è variegata. A Gorizia è stata inaugurata da poco, nella Galleria Bombi, l'installazione di LED di Refik Anadol, il data tunnel oltre 1000 metri quadrati, in cui, con un flusso visivo digitale, vengono mescolati elementi botanici, movimenti del mare, ritmi dell'atmosfera, in un'esperienza meditativa e unica. Per accedere serve prenotare. Sempre a Gorizia è in corso, fino a inizio maggio, la mostra Back to Peace, la guerra vista dai grandi fotografi Magnum, a Palazzo Hattem Spetzenstein, scatti di Robert Capa sullo sbarco in Normandia, George Roger sulla liberazione dei campi di concentramento, ma anche Werner Bischoff e David Seymour. Due mostre anche a Trieste, per le fotografie a Palazzo Gopcevic, le immagini della fototeca che raccontano la città di una volta, fino ad aprile, mentre al Salone degli Incanti si potrà visitare, ancora per poco, chiude l'11 gennaio, l'esposizione dedicata a Tolkien, il celebre autore del Signore degli Anelli, in cui si racconta con diversi documenti il percorso umano, il lavoro accademico, la capacità narrativa del romanziere. Per chi preferisse il mondo dei fumetti, c'è la Pimpa a Udine, dell'ex chiesa di San Francesco, fino al 6 gennaio. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli a Trieste, arriva sul palcoscenico del Rossetti lo Schiaccianoci con l'Ukrainian Classical Ballet. Andrà in scena stasera e domani. La formazione ucraina propone una versione fedele all'originale dal punto di vista del racconto e della coreografia, e arricchita nell'aspetto visuale da scenografie moderne, costumi luminosi e proiezioni video. Lo spettacolo si annuncia dunque suggestivo, come nella tradizione, e più contemporaneo sul piano dell'allestimento. Per i giovanissimi e non solo, lo spettacolo di un nome di livello internazionale del teatro clown, cioè la svizzera Gardi Hutter, protagonista a Trieste di Giovanna d'Arp Po, storia di una lavandaia trasognata e squinternata che, sognando grandi azioni eroiche, trasforma la propria lavanderia in un grottesco campo di battaglia. Sul palco storie tragicomiche che sono metafore della vita quotidiana. Tutto questo è al Teatro Miela alle 20:30. Gala di fine anno alle 20:45 a Cervignano del Friuli con la Friuli Venezia Giulia Orchestra, Teatro Pasolini, per celebrare Johann Strauss a 200 anni dalla nascita, ma anche la prima rappresentazione dell'operetta Cincilla, dalla quale è trascorso un secolo. A Pordenone si apre all'ex convento di San Francesco l'Acustica Festival, che proseguirà fino a lunedì. I chitarristi Alessandro Minci e Riccardo Pelosi proporranno alle 21 il programma dal titolo La chitarra, voce dell'anima. Calcio, basket e volley nel menù sportivo di quest'ultimo sabato dell'anno. Prime a scendere in campo saranno l'Udinese allo Stadio Friuli alle 18 contro la Lazio e la CD Talma Sons nella A2 femminile di pallavolo per lo scontro al vertice contro Brescia. Un fine settimana pieno per uno sport professionistico che ha abolito le vacanze di Natale. Oggi tocca alle squadre di Udine. Quella di calcio i cenoni di Natale li ha fatti in ritiro e ha lavorato sul campo per preparare la sfida con la Lazio in programma alle 18 al Friuli. L'ultimo allenamento non ha sciolto l'unica vera incognita di formazione, quella su chi giocherà esterno a sinistra tra Bertola e la rientrante Camarà. Certo è che l'obiettivo è uno solo: far dimenticare ai tifosi la sconfitta per 5-1 di Firenze, arrivata praticamente senza combattere. Alle 20 tocca all'APU, impegnata sul parquet di Trento. Gli uomini di Vertemati, vincendo, potrebbero arrivare in zona playoff, più facile a dirsi che a farsi, dato che Trento segna in media 90 punti a partita, è una delle migliori difese del campionato e in casa ne ha vinte 4 su 6. Udine al completo, al netto di Hickey squalificato, chiave tecnica del match, il controllo del ritmo e l'attenzione difensiva contro il talento delle guardie avversarie. Sempre in Serie A, Trieste è attesa lunedì allo scontro con la Virtus Bologna, clou della giornata, e in A2 Cividale gioca domani sul parquet di Cremona. Senza soste anche il volley di A2, maschile e femminile. Oggi tocca a Talma Sons in casa contro il Millennium Brescia alle 18. Domani Prata in trasferta contro la Liberta Esperienza. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Non perdete domani l'appuntamento con le nostre rubriche, a cominciare da quello internazionale con Est-Ovest, che andrà in onda su queste frequenze alle 6:05, poi in televisione alle 11:05 su Rai 3. La guerra ibrida e la disperazione delle persone migranti che dalla Bielorussia tentano di entrare in Polonia. Le volontarie delle ACLI e di altre organizzazioni impegnate nel servizio civile nei campi profughi in Bosnia. La Moldavia, un paese multilinguistico e multiculturale dove imperversa una feroce battaglia informativa. Gli interventi del governo di Viktor Orban nella realtà urbanistica della capitale ungherese Budapest. Uno spettacolo scritto dallo storico Vanni D'Alessio racconta l'identità di Fiume da D'Annunzio alla Croazia. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E domattina, subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale, andrà in onda Vita nei campi, agricoltura e orticoltura, ma anche Buona tavola, tradizioni e innovazione. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani fa il punto sull'agricoltura regionale tra risorse e rischi con l'assessore Zanier. A seguire l'odore dell'inverno nella campagna friulana che attende l'allungarsi delle giornate. Tecniche e vantaggi della pacciamatura per proteggere le piante e l'orto di casa. L'incredibile storia del tè, la bevanda più consumata al mondo, tra geopolitica, oppio e danni ambientali. E ancora cosa fare e non fare per garantire la sicurezza di un sempreverde della pasticceria, la crema al mascarpone. Agrifoglio, vischio, alloro, rosmarino e leboro, le piante del Natale prima della stella di Natale. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Giuliano Pecorari e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Le 12:50, prossima edizione oggi che è sabato alle 14:30. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.